Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. L'Europa sceglie la destra in Germania, Francia, calo record dei partiti di sinistra, avanzano euroscetticismo e formazioni xenofobe. Da Brown alla Merkel a Zapatero, i governi europei sconfitti dalla crisi, regge solo Sarkozy. In Italia il PDL è al 35%, il PD si ferma al 26%, in forte crescita Lega, Italia dei Valori e tra poco lo spoglio delle amministrative. Elezioni anche in Libano, dalle urne esce vittoriosa la coalizione filo-occidentale, Hezbollah non sfonda. Braccio di ferro tra Vaticano e Israele a pochi giorni dalla visita di Benedetto XVI, sequestrati alcuni beni della Chiesa per una questione di tasse. Esame di maturità anche senza documenti, il Ministero fa dietro front. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. È il giorno del verdetto dunque per l'Europa, il verdetto complessivo, l'Europa che è andata al voto per rinnovare il suo Parlamento. L'esito lo sappiamo, i socialisti hanno registrato una battuta d'arresto, bene invece è andata ai conservatori, un avanzamento l'hanno registrato anche le destre e i verdi. Questo, volendo fare una sintesi, il risultato del voto per l'Europarlamento che esce così dalle urne dopo che nei 27 paesi facenti parte si è andati al voto. Il Palazzo di Strasburgo in sostanza si ridisegna confermando il PPE come gruppo più consistente, facendo segnare un netto arretramento del Partito Socialista che cala sensibilmente, come dicevamo nei titoli, soprattutto nei grandi paesi, in Francia e in Gran Bretagna, ma anche nella Spagna di Zapatero. Altro dato è l'euroscetticismo, con un astensionismo record e una partecipazione che, se consideriamo tutti i 27 paesi, si è fermata al 43,39%. E in Italia, come vi abbiamo raccontato anche nelle nostre lunghe maratone elettorali e con i dati di questa mattina, adesso sono ufficiali. Il quadro vede un PDL che non sfonda quanto erano le aspettative, raggiunge il 35,3%, un Partito Democratico che tiene, anche se debolmente, al 26,2%, ma i dati più significativi e più evidenti sono la crescita della Lega, che raggiunge il 10,2%, l'Italia dei Valori raggiunge l'8%, l'UDC è al 6,5%, tutte le altre liste invece, tra cui Rifondazione, Comunisti Italiani, Sinistra Libertà, Radicali, Destra, Movimento per le Autonomie e Pensionati, invece queste non superano la soglia di sbarramento che era, lo ricordiamo, al 4% per avere diritto ad avere, insomma, eurodeputati. Alle 14 comincerà lo spoglio delle amministrative che vedono 33 milioni di italiani al voto, seguiremo anche quelle passo passo con i nostri speciali, intanto però i commenti sull'esito del voto europeo già stanno arrivando. Per il PDL, il quotidiano Libero a riportare lo sfogo di Berlusconi, ho dovuto fare tutto da me, come al solito ho tirato la carretta da solo, così avrebbe detto il Premier e così ha parlato il portavoce Bonaiuti. In realtà il progetto di Berlusconi di costruire il PDL, che nasce con l'intuizione del predellino, è un progetto che va avanti benissimo, che non supera quei livelli che erano stati pronosticati da tutti i sondaggisti concordemente, non da uno, soltanto perché c'è un forte livello di astensione e ci sono dei problemi dichiaratamente non politici. Questo Bonaiuti. Sono soddisfatto, ha invece detto Umberto Bossi, leader della Lega Nord, è un risultato importante. La Lega, ha detto Bossi, ottiene voti anche da coloro che votavano a sinistra e che adesso non si sentono più rappresentati. E invece per il Partito Democratico, conferenza stampa del segretario Dario Franceschini, che ha commentato così, sentiamo. In un momento in cui c'è un calo diffuso di tutte le forze del campo progressista in Europa e purtroppo un calo molto forte, in questo calo il Partito Democratico si conferma, diventa il primo partito in quanto a voti e probabilmente in quanto a eletti. L'altro elemento è che i voti che sono usciti dal Partito Democratico rispetto all'anno scorso restano nel nostro campo, restano tra i radicali che l'anno scorso, come sapete, erano nelle liste del Partito Democratico. E il secondo sono rimasti nel nostro campo, nel senso che c'è stata una crescita indiscutibile dell'Italia dei Valori. Gli avvoltoi possono tornarsene a casa perché, riconoscendo quella flessione di voti, ma arriva tutta intera dagli italiani la conferma e la validità del progetto del Partito Democratico. Come detto, netto anche il risultato del partito di Antonio Di Pietro, l'Italia dei Valori, e Di Pietro ha commentato: da domani non saremo più parte dell'opposizione, ma della alternativa al governo Berlusconi. Questo il quadro del voto in Italia. Avremo nel corso della giornata altre occasioni per parlarne, dicevamo anche per i risultati delle amministrative. Con Extra Large però, come vi avevamo preannunciato, vogliamo cercare anche di raccontarvi il voto negli altri paesi europei. Allora, dall'Italia cominciamo ad andare a Bruxelles e salutiamo Adriana Cerretelli. Buongiorno. Buongiorno. Adriana, in sintesi dicevamo un Europarlamento uscito dalle urne che va a destra, una sconfitta storica per le sinistre europee, altro dato l'avanzamento di partiti euroscettici e in alcuni casi anche xenofobi. Sei d'accordo con questa sintesi? Sì, direi di sì, in più con un'affermazione dei Verdi, cioè con l'estrema sinistra che a sua volta... Nonostante sarebbe stato logico immaginare che potesse avanzare proprio nell'ambito di queste forze più populiste che si sono affermate, invece l'estrema sinistra tra le forze estreme non è riuscita ad avanzare. Però chi ha beneficiato di questo grosso spostamento di voti sono stati i Verdi. I Verdi che in Francia hanno decisamente umiliato i socialisti, non c'è stato il sorpasso, ma praticamente per un'incollatura, e comunque in Belgio, in Danimarca, in Portogallo si sono fatti sentire. È un po' un voto che riflette le nuove sensibilità della società e al tempo stesso la protesta verso i grandi partiti che evidentemente non sanno dare risposte adeguate alla gente. Adriana, tra l'altro un Europarlamento che dovrà vedersela anche con la crisi economica, con la necessità di riaffermare il proprio ruolo. Tra l'altro sappiamo che le riforme assegnano sempre più poteri anche a questo Europarlamento, che però è quello anche che è stato meno votato, quindi c'è anche un po' questo paradosso. Sì, questo è uno dei paradossi, forse il più grosso paradosso di queste elezioni. D'altra parte l'assenteismo è un dato fisiologico: da quando il Parlamento nel 79 si vota a suffragio universale, la partecipazione alle urne non ha fatto che scendere, si cominciò col 62%, ormai si è arrivati al 43%, quindi è in parte fisiologico, super paradossale proprio perché i poteri del Parlamento aumentano, l'80% della legislazione nazionale, questo è bene ripeterlo perché la gente spesso non lo sa, ma l'80% delle nostre leggi derivano da decisioni prese a Bruxelles o a Strasburgo, cioè da decisioni che il Parlamento prende insieme al Consiglio dei Ministri, cioè insieme ai governi europei. Quindi il voto al Parlamento europeo non è un voto secondario, è un voto che riguarda tutti noi da molto vicino. E che però questa impressione ancora resta e molto nella gente. Adriana, ti chiediamo di restare con noi ancora un paio di minuti perché volevamo commentare con te anche questa intervista che ha fatto poco fa Sergio Nava all'ex presidente del Parlamento europeo, l'irlandese Pat Cox. I would quote the Conte Cavour after the reunification of Italy, when he remarked, Italia è fatta, ora dobbiamo fare gli italiani. I think we could say Europa è fatta, ora dobbiamo fare gli europei. Ricorre a una citazione storica tutta italiana, quella di Camillo Benso Conte di Cavour, il presidente del Movimento Europeo Pat Cox, già presidente dell'Europarlamento all'inizio del XXI secolo. Cox, liberale, ha vissuto da Dublino i risultati della notte elettorale. Ai microfoni di Radio 24 non si dice tanto preoccupato dall'avanzata del centrodestra, quanto piuttosto dal forte tasso di astensionismo e dal risultato dei partiti nazionalisti o xenofobi. I think the economic crisis explains... Penso che la crisi economica spieghi solo una parte del voto. In Spagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Bulgaria, Ungheria, la crisi ha giocato un ruolo importante che ha portato a una censura severa dei partiti di governo. In altri casi, come in Polonia, in Germania, in Italia e Francia, i partiti di governo hanno invece fatto abbastanza bene o molto bene. La crisi economica ha certamente spinto in alto gruppi molto eterogenei dell'estrema sinistra o dell'estrema destra, soprattutto di populisti di estrema destra, anti-immigrati, anti-islamici, anti-europei. Partitini che registreranno una presenza maggiore nel prossimo Parlamento europeo, ma le forze tradizionali dell'Europarlamento, quali i popolari, i socialisti, i liberali e i verdi, avranno una solida maggioranza. A Cox chiediamo sappiamo quanto sia rischioso per l'Europa il forte tasso di astensionismo. Penso che il trend disturbi abbastanza, disturba soprattutto perché in alcuni paesi, soprattutto nei nuovi paesi membri, ma non solo, l'affluenza è stata veramente bassa. Questa è dunque la vera sfida che i partiti politici e nazionali devono affrontare. Se l'Europa vuole avere una sua legittimità, non può vedere sempre scendere il tasso di votanti. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Adriana Ceretelli in collegamento da Bruxelles. Abbiamo visto e abbiamo sentito anche Pat Cox come sarà il nuovo Europarlamento, ma dove siederanno, e torniamo alle vicende di casa nostra, tra i nostri due principali partiti, il PDL e il PD, perché sappiamo che il PD ha il problema di aderire o meno al Partito Socialista Europeo, ma qualcosa forse accadrà anche per il PDL diviso tra AN e Forza Italia? No, il PDL è un polo compatto, oramai non si presenta più come Forza Italia e AN, è un partito unico. Quindi siede tra i popolari, e questa è una decisione che è già stata presa e non risolverà nessuna sorpresa. Il punto interrogativo era se il PDL riusciva a diventare il primo partito del PPE, dei popolari. Invece non c'è riuscito, perché la scommessa era sul fatto che il partito della Merkel in Baviera, cioè la CSU, non riuscisse a raggiungere il quorum e quindi che la rappresentanza tedesca diventasse la seconda rispetto a quella italiana. Questo non è avvenuto, l'Italia sarà la seconda. Diverso il caso, e questo naturalmente potrebbe mettere a rischio la candidatura di Mario Mauro come presidente del Parlamento gruppo, europeo. Certo, perché l'Italia sì. Aspira anche alla presidenza in questa tornata del Parlamento europeo, ricordiamolo. Invece diverso il caso del PD. Il PD non è riuscito, diciamo, prima delle elezioni a decidere in che gruppo andare, ha ripiegato su una soluzione che lo vedrebbe alleato ai socialisti, però su questo però per farlo chiede che il partito socialista, che il gruppo socialista cambi nome e diventi gruppo socialdemocratico. Per ora Martin Schulz, che è il leader dei socialisti europei, certo, Non aveva accettato l'idea del cambio del nome. Adesso magari che è indebolito può darsi che lo accetti. Però diciamo la collocazione del PD, infatti il PD non è calcolato al momento nelle forze dei socialisti europei, bensì è messo nella categoria altri, insieme ai Tories britannici. E questo comunque è una cosa che dovrà risolvere il Partito Democratico, e non so neanche se sarà una cosa tanto rapida, insomma, perché se ne parla da molto. Grazie Adriana Ceretelli da Bruxelles. E noi tra l'altro di Europa e di europei continueremo a parlare più avanti con commenti, interviste dirette dei nostri corrispondenti. Prima però andiamo avanti anche con le altre notizie. E cominciamo allora dal ritrovamento di altre vittime dell'Airbus precipitato nell'Atlantico. A una settimana dalla misteriosa scomparsa dell'Airbus Air France, dalle acque dell'Atlantico sono stati recuperati 17 corpi. E questo tragico dato, una delle pochissime certezze di tutta la vicenda. E mentre sono stati individuati altri corpi che potrebbero essere presto riportati a terra, le ricerche sinora hanno permesso di raccogliere anche centinaia di oggetti e frammenti del velivolo. In totale, alle perlustrazioni partecipano 14 aerei, 5 navi, e nell'area è in arrivo anche il sottomarino nucleare francese Merode. Intanto le indagini si stanno concentrando sul cattivo funzionamento dei sensori che misurano la velocità, e la stessa Air France ha detto di aver accelerato la sostituzione di questi sensori sui suoi Airbus impiegati per i voli a lungo raggio. Ma per sapere veramente come sono andate le cose, l'unica speranza è legata a doppio filo al recupero delle scatole nere. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E braccio di ferro tra Vaticano e governo di Tel Aviv. A poche settimane dalla visita di Benedetto XVI in Israele, il governo israeliano ha infatti bloccato i conti correnti dei custodi della Terra Santa e di altri enti cattolici in Israele per costringere le istituzioni ecclesiastiche a pagare le tasse, senza attendere le conclusioni del negoziato che verte in particolare sullo statuto fiscale della Chiesa in Israele. Si è votato anche in Libano. Il movimento sciita libanese Hezbollah, che guida l'opposizione, sostenuto sostenuta da Iran e Siria, ha riconosciuto stamani la vittoria della coalizione filo-occidentale alle elezioni legislative. I risultati ufficiali stanno arrivando in questi minuti, ne parleremo più avanti. Andremo a Beirut. La cronaca italiana: una bimba di 4 anni è morta nella notte cadendo dal quarto piano di un albergo a Palermo. Stava partecipando ad una festa per la prima comunione. Esami di maturità: arriva una precisazione dal ministero dopo il caso della ragazza esclusa perché le mancava un documento. Per lei si erano mobilitati il dirigente scolastico, i docenti e i compagni di classe. Daria, la studentessa ucraina che da tempo vive a Napoli ma è clandestina, rischiava di non sostenere gli esami di maturità perché irregolare. Infatti, una circolare del Ministero dell'Istruzione chiedeva di fornire il codice fiscale prima delle prove. Dopo le polemiche di questi giorni è stata però una nota dello stesso ministero, guidato da Maria Stella Gelmini, a chiarire. Il documento è richiesto, ma solo per aggiornare l'anagrafe degli studenti. I ragazzi che non ne sono in possesso potranno comunque sostenere gli esami. Dunque, anche Daria, la ventenne, 3 anni fa si è iscritta a scuola nel nostro paese, alunna modello, frequenta il liceo linguistico Margherita di Savoia nel centro di Napoli. Mamma collaboratrice domestica, papà saldatore, lei stessa svolge di sera qualche lavoretto e ora dice: «Voglio solo continuare a studiare, costruirmi un futuro, iscrivendomi all'università». Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 21 minuti, 30 secondi in questo istante. Extra large riprende allora col voto in Europa. Andiamo in Germania, il più popoloso dei paesi dell'Unione, con 82 milioni di abitanti. Qui una battuta d'arresto per il partito della cancelliera Angela Merkel, ma il minimo l'hanno raggiunto soprattutto i socialdemocratici. Andiamo in diretta da Francoforte con Beda Romano. Buongiorno Beda. Buongiorno. Allora, il crollo dei socialdemocratici soprattutto è la notizia, indebolisce probabilmente anche la grande coalizione. Sappiamo che la Germania andrà al voto politico presto, quindi strada spianata per la Merkel. Queste sono le conseguenze politiche. Ma insomma, il risultato di domenica è un risultato chiaramente a favore della signora Merkel. Insomma, il cancelliere, la CDU del cancelliere è il primo partito di gran lunga, a circa il 38% dei voti. È calata rispetto a 5 anni fa, dal 44%, ma rimane senza dubbio il primo partito. L'SPD, che è l'altro grande partito popolare, è rimasto fermo intorno al 21% ed è in grande, fortissima debolezza. Il problema a questo punto è capire se la CDU potrà in settembre vincere le elezioni e governare con i suoi alleati tradizionali, che sono i liberali dell'FDP. Sulla base dei risultati pubblicati oggi relativi alle europee, questa coalizione, che è fondamentalmente preferita dal cancelliere, è ancora in forse, perché i due partiti insieme hanno circa il 49% dei voti. È ancora difficile capire se questa coalizione risulterà vincente in settembre, tanto che la stampa tedesca di questa mattina rimane estremamente cauta sui risvolti nazionali da dare a questo voto. Non possiamo escludere che in settembre, quando gli tedeschi torneranno alle urne, si possa alla fin fine rivedere un remake della grande coalizione tra socialdemocratici e democristiani. Dico questo per un fattore molto, molto particolare: il tasso di affluenza alle urne ieri per le elezioni europee è stato bassissimo, intorno al 43%. Un po' in tutta Europa, certo. 43%. Quindi è inevitabile pensare che il risultato di settembre verrà influenzato. Mancano molti elettori, insomma, l'appello per fare un po' di conti. Senti Beda, un'altra domanda, ti spostiamo un po' su un altro tema, perché l'SPD si era anche esposta molto ad esempio sul caso Opel, visto che la vicenda un po' ci riguarda. Questa sconfitta potrebbe rimescolare le carte secondo te? È una domanda che è stata fatta proprio la signora Merkel mezz'ora fa in conferenza stampa, in diretta televisiva da Berlino, e lei ha risposto assolutamente no. La sua risposta è stata una risposta evidentemente diplomatica. La mia impressione è che dietro alla decisione di dare Opel a Magna e non a Fiat ci fosse naturalmente dietro le SPD e i sindacati, ma anche molti cristiano-democratici e cristiano-sociali. Non è sorprendente se proprio questa mattina un ministro presidente di un land, Roland Koch, membro della CDU della signora Merkel, ha detto che assolutamente l'accordo Magna Opel va continuato e, le cose non si tocca per ora. E non si tocca. Quindi quella decisione è stata una decisione per certi versi bipartisan, c'erano molti democristiani e naturalmente molti socialdemocratici. Ci saranno ancora valutazioni economiche, ma non aspetti politici su questa vicenda Opel. Grazie Beda Romano per questa corrispondenza. Ci spostiamo in Gran Bretagna e salutiamo anche Leonardo Maisano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Anche qua una battuta d'arresto, però in questo caso è proprio un tracollo per chi stava al governo. I laburisti si saranno sommati a euroscetticismo, scandali, insomma un momentaccio per la coalizione al governo. Qual è la lettura oggi del voto, Leonardo? Non c'è dubbio che è un momentaccio, nel senso che il partito laburista dal dopoguerra non aveva mai avuto un risultato elettorale di queste dimensioni, al 15,7% dei voti. Quindi se era considerato prima delle elezioni negativo un risultato al di sotto del 20%, siamo andati molto al di sotto del 20%, al di là del fatto che non è più nemmeno il secondo partito, ma il terzo, essendoci gli indipendentisti di questo partito che si chiama UKIP e che è sostanzialmente un partito che ha una piattaforma anti-europeista per portare il Regno Unito fuori dall'Unione. E sono stati premiati sia loro che il British National Party, che invece è una formazione marcatamente neofascista, razzista, che ha monetizzato, come dire, tutta questa onda dell'antipolitica, che bisogna dire per la prima volta, anche se l'UKIP aveva già ottenuto un grosso risultato nel 2004, però è la prima volta che si consolida in queste dimensioni in Inghilterra. E insomma anche questo è un dato che emerge in molti paesi europei. Leonardo, anche per te ancora un'altra battuta. Secondo te per Brown c'è spazio per ripartire in vista delle prossime politiche? Bisogna dire che anche nel 2004 i laburisti furono sconfitti dai conservatori in modo netto e poi vinsero l'anno dopo le politiche. Parliamo di una sconfitta che non ha paragoni con quella di adesso, cioè rispetto ad allora il partito laburista ha perso 10 punti, 8 punti, una cosa del genere. Quindi quello di Brown è stato un tracollo. Oggi i deputati laburisti si riuniranno a Westminster per decidere che cosa fare, se lanciare una sfida al Premier e quindi candidare un nuovo uomo per la leadership del partito, che poi diventerebbe primo ministro, ma questo farebbe lo scenario politico portando l'Inghilterra a elezioni anticipate nel volgere di poche settimane, una cosa che spingerebbe i laburisti a una sostanziale sconfitta sicura. Questo forse è l'unico motivo per il quale i laburisti oggi. È la linea disturbata, comunque il concetto era chiaro, meglio non muoversi in questo momento per i laburisti di Gordon Brown. Andiamo adesso in Francia, dove ha votato circa il 60% degli elettori, anche qua meno che alle precedenti tornate, l'unico tra i grandi paesi dove il partito al governo, l'UMP del presidente Sarkozy, ha avuto una conferma, addirittura una crescita dei consensi. Sono crollati invece i socialisti, che sono stati raggiunti da un netto exploit dei Verdi. Sentiamo Cristina Carpinelli. Con Ben Dit che sentite, in Francia diventa con il suo Europa Ecologiste il terzo partito e dice che i francesi hanno scelto i Verdi perché ecologia significa rilancio dell'economia e delle nuove tecnologie. Ben Dit dice anche che chi ha votato, e in Francia c'è stata un'astensione record pari al 60%, ha scelto chi in questi anni ha garantito un serio lavoro in seno al Parlamento europeo. Il leader ecologista franco-tedesco, che con la sua lista Europa Ecologista ha avuto il 16,28%, quasi pari ai socialisti, ha già detto questa mattina che i Verdi europei stanno trattando coi socialisti europei per provare a costituire una maggioranza. Per celebrare il successo di Sarkozy, che resta il primo partito con oltre il 28% di preferenze, parla invece François Fillon. È la prima volta che un partito della maggioranza presidenziale arriva in testa alle europee, dice. È il riconoscimento del lavoro svolto durante la presidenza francese dell'Unione. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:35 minuti 30 secondi, GR24 extra large dedicato oggi al voto in Europa. Sì, riprendiamo il nostro cammino nel dopo europeo. In Italia, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, l'affluenza al voto è stata sicuramente superiore rispetto al resto dell'Europa. Del resto da noi si votava anche per le amministrative e tra poco, fra 20-25 minuti, cominceremo anche a seguire noi di Radio 24 lo scrutinio delle amministrative. Ma parlando di europee, insomma, in questa campagna elettorale e anche nel commento del dopo voto di Europa si è parlato veramente pochissimo, questo va detto. E si è votato pochissimo, perché abbiamo detto, se consideriamo tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, la partecipazione al voto è stata in totale del 43,39%. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, con te vogliamo ripercorrere un po' queste elezioni attraverso la stampa europea e cominciamo con una domanda un po' provocatoria. Insomma, c'è qualcuno che l'ha preso sul serio questo voto? Ma devo dirti, se ciò che viene messo in prima pagina vuol dire che ha una qualche importanza, allora naturalmente sì, però bisognerebbe andare a vedere i giornali delle ultime due settimane, e avete ragione voi, di elezioni politiche si è parlato molto poco, poi quando arrivano i risultati si è costretti, e così oggi Financial Times, l'edizione europea del Wall Street Journal, o l'International Herald Tribune, che è l'edizione diciamo europea del New York Times, stampato a Parigi, tutti ce l'hanno in prima pagina sottolineando queste macro tendenze che conosciamo tutti, cioè una bassissima che quindi creerà problemi anche in vista degli ultimi paesi che devono ratificare il Trattato di Lisbona e quelli che l'hanno già ratificato ma cominciano ad avere molti dubbi, e poi c'è questa grande sconfitta per tutti i partiti di governo, siccome è anche una per esempio Financial Times titola la destra rafforza il suo grip, la sua presa sull'Europa. Il risultato su cui Financial Times punta è quello dei conservatori britannici, che hanno dato un altro schiaffo non da ridere al governo Brown, già in gravissime difficoltà, e sono proprio, tra l'altro per esempio a Londra, i grandi vincitori. Se questo avrà o no, l'altra domanda che si pone per esempio l'International Herald Tribune, se questi risultati adesso avranno delle conseguenze immediate sui governi, perché anche Zapatero in Spagna ha preso una bella batosta, titola Il País oggi in prima pagina, è un po' da vedere. E poi preoccupa naturalmente questa bassissima affluenza. Segnalo infine da un giornale un po' lontano dall'Argentina uno spazio, insomma un articolo anche abbastanza lungo sul caso italiano, che era forse uno dei più così interessanti da guardare da un punto di vista degli osservatori politici, e viene sottolineato il mancato grande successo del Popolo della Libertà, che resta comunque però il primo partito italiano in Europa. Giulia, abbiamo fatto dei focus su Francia, Germania, Gran Bretagna, tra poco andremo anche in Irlanda. Tu, visto che si votava in 27 paesi, hai qualcos'altro sulla stampa straniera di oggi? Sì, c'è per esempio tutto il caso dell'Europa dell'Est, anche lì c'è era per alcuni paesi, tra l'altro era il primo voto europeo, quindi ci si aspettava se non altro che magari così per l'emozione di votare, e invece per esempio sottolinea ancora Financial Times, anche in questi paesi l'affluenza è stata molto bassa. Un altro brutto segnale per l'Europa, forse sempre scrive per esempio Financial Times, pesa anche il fatto che il Parlamento europeo a tutt'oggi, e questo all'est comunque lo sanno perché sono stati istruiti a dovere, penso, su come funzionano le istituzioni europee, è uno dei pochi parlamenti che di fatto non legifera, nel senso che fa delle leggi ma non sono quelle che poi vengono recepite negli ordinamenti, quindi è un organismo che viene vissuto come superfluo. Allora, per esempio, questi paesi che sono appena entrati nell'Unione Europea forse si aspettavano di vedere subito il risultato di un voto popolare, invece sanno che purtroppo il voto popolare poi conta abbastanza poco nelle decisioni di dubbi ce ne sono già nei paesi che l'Europa la conoscono da molto tempo, qui sicuramente ha pesato molto. Grazie a Giulia Crivelli. Noi questa Europa continuiamo a raccontarvela attraverso il voto e andiamo ora in un altro paese, un paese che della crisi sta risentendo davvero moltissimo, ed è l'Irlanda. Peraltro, notizia proprio di questa mattina, delle ultime ore, è che Standard & Poor's ha tagliato nuovamente il rating dell'Irlanda per la seconda volta in tre mesi a causa degli elevati costi di salvataggio del sistema bancario del paese. Il rating è stato abbassato da AA+ ad AA con outlook negativo. Ed è proprio la crisi a punire in questa tornata elettorale il partito di governo nazionalista irlandese Fianna Fáil, che cede terreno ai rivali storici progressisti di centro del Fine Gael. Il premier affronterà un voto di sfiducia in settimana, ma per raccontarvela questa Irlanda abbiamo proprio voluto andare proprio nel cuore del sistema a questo punto bancario e assicurativo. Sergio Nava ha intervistato Lorenzo Devan, dipendente nel settore assicurativo a Dublino. L'Irlanda l'ha vissuta in maniera completamente diversa rispetto all'Italia, prima di tutto perché la politica non entra in ogni cosa, quindi non ci si è bombardati dalla politica, è la persona che si fa interesse della politica, quindi si interessa delle persone di cui votare. Quindi in questo periodo di crisi dove c'è la recessione mondiale, l'argomento principe è comunque quello del lavoro. L'Irlanda è un paese che ha 5 milioni di abitanti, quindi è una struttura completamente diversa dal restante continente europeo, quindi è una nazione che si riesce più o meno finanziariamente a malleare anche alla situazione. Infatti l'Irlanda è sempre stata famosa in questi anni di boom, in questi ventennio di boom, perché comunque non c'erano tasse, non si pagavano tasse, le tasse erano minime. Adesso invece, dopo diciamo 20 anni di vacche grasse, lo Stato sta chiedendo anche un aiuto da parte dei cittadini, quindi le tasse stanno aumentando. In un paese dove per 20 anni si è avuto un boom, che se abbiano 2 o 3 anni dal punto di vista lavorativo, economico, 2 o 3 anni che possono essere deficitari, si possono superare. E dall'Irlanda alla Polonia, con quasi 40 milioni di abitanti, è uno dei paesi più grandi dell'Unione, a cui appartiene dal 2004. A lungo al centro del dibattito europeo, la Polonia per il famoso idraulico polacco, ve lo ricordate? Lì a dominare erano i timori suscitati dalla libera circolazione della manodopera a basso costo proveniente improvvisamente, appunto nel 2004, da quel paese. A 5 anni dall'ingresso in Unione Europea, qual è oggi la situazione? Lo chiediamo al corrispondente della radio pubblica polacca in Italia, Mark Elnert. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come è andato per voi questo voto? Ma direi male, direi molto male. Io ovviamente mi sono collegato questa mattina con Varsavia e per la rassegna stampa e ho cominciato dal dato di cui possiamo qui in Italia essere fieri: l'alta affluenza alle urne, più di 67%. Quando ho detto questa cifra mi hanno chiesto di ripeterla, non ci volevano credere, perché in Polonia sono andati in 24% aventi diritto soltanto. Ormai da qualche anno si viaggia sui 30% anche per le elezioni politiche, per le elezioni presidenziali, e queste sono andate da questo punto di vista ancora peggio. Tra l'altro l'Italia e la Polonia non concorrono per la presidenza del Parlamento, cioè un derby italo-polacco, però con questa bassa affluenza al voto forse non è che la vostra candidatura salga. Infatti questo non lo so, perché questo da domani cominceranno a parlarne sia le cancellerie, singoli governi europei, sia a Bruxelles e a Strasburgo. Però appunto anch'io ho fatto caso per quando mi è stato chiesto, ma vedi un po' cosa si dice di questa candidatura di Buzek, di Jerzy Buzek, un nostro ex primo ministro, contro deputato uscente, vicepresidente del Parlamento europeo, Mario Mauro. Io ho detto, ma bastava andare più numerosi alle urne e sostenere questo Buzek invece di chiedere informazioni a destra e a manca. La cosa più interessante, forse non è una novità, però si è visto, era palpabile in queste elezioni, era il fatto che i media ci presentavano, soprattutto io ho questa impressione, ormai sto fuori, quindi so della Polonia quando ci vado, sì, ma di solito dalla TV, dalla radio, immagine di un paese inesistente, cioè un paese tutto preso dalla politica. La TV era un continuo andare e vieni di politici che si assaltavano, che litigavano. La politica numero uno, proprio il top di tutto quanto. Invece si è visto che la gente o lo guarda con un occhio solo o non lo guarda proprio e si fa affari propri. E fa altro. Ma 5 anni fa si fece poi tanto per entrare in Europa, si risponevano molte speranze in Europa. Che cosa non ha convinto di questa Europa? Perché appunto, come ci raccontavi oggi, un polacco su 4 solo è andato a votare. Cosa non ha convinto? Ma sono varie le cause. Io direi, cioè, la Polonia vuole rimanere nell'Unione Europea. Quando io mi azzardo, non da oggi ma da un bel po', visti questi risultati, visto il fatto che il Trattato di Lisbona, passato nel Parlamento, però non ancora privo della firma del Capo dello Stato, io dico, ma forse è il caso di uscirne. No, per carità, i polacchi sanno quanto ben di Dio arriva da Bruxelles, e ovviamente litigano perché non tutti questi fondi europei sono sfruttati e sono sfruttati al meglio. La Polonia ha ancora, e questo lo so anche da voi, da Radio 24, dal Sole 24 Ore, non è messa male, diciamo, rispetto a questa crisi, ed è conscia di questo fatto, che è forse uno dei pochi baluardi, uno dei pochi paesi che ci resistono, si sta abbastanza bene ancora, e tutti, come dicevo, si fanno affari suoi, ma sono affari suoi nel senso buono della parola, cioè la gente è indaffarata, ci sono tanti imprenditori, e tutti vogliono aprire anche un piccolo buco con internet, con computer, contatti in tutto il mondo, e i giovani parlano le lingue, quindi si danno da fare, e questo appunto più che per, nonostante la politica, i politici che sono miopi, che appunto non vedono, mettiamo esempio il Presidente della Repubblica, quello che si ostina a firmare il Trattato di Lisbona, ha fatto un appello prima delle elezioni europee dicendo che bisogna scegliere i veri polacchi, quindi ancora rimane questo in lui, non nel popolo, spero, questa paura che l'Unione Europea ci toglierà qualcosa della... Paure che attraversano, grazie intanto a Marek Elenert, paure che attraversano naturalmente anche tutti gli altri paesi dell'Unione Europea che hanno votato, e contribuendo così a cedere quote di sovranità a Bruxelles. 13:50, ancora GR24 extra large. Non si è votato solo in Europa, in questo fine settimana c'è stato un altro voto importante. Eh sì, andiamo in Libano e salutiamo anche Ugo Tramballi che si trova a Beirut. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Dunque, anche qua un voto importante, un voto strategico. C'è stata, tra l'altro, cominciamo da qua, una alta affluenza di poco superiore al 50%, forse a noi potrà sembrare non alta, però per questo paese, tra l'altro anche un voto senza grossi momenti, grandi momenti di tensione, già questo è un fatto tutto sommato positivo da registrare. Partiamo da qua, Ugo. Il fatto che ci sia stata così tanta affluenza e che non ci siano state grosse tensioni dimostra un po' la maturità di questa perfetta democrazia libanese, perché in gioco c'era molto, c'erano cose molto importanti da decidere, cioè se vinceva il fronte dell'8 marzo c'era una scelta più di conflitto, una scelta più a favore dell'Iran, più a favore di Hezbollah, dell'idea di che Hezbollah ha dell'uso delle sue milizie per fare la cosiddetta lotta libera di liberazione contro Israele, anche se in realtà Israele si è quasi completamente già ritirata dal Libano. La scelta che è stata fatta invece è una scelta più moderata, più stabile, più chiara rispetto anche a quello che il Libano effettivamente è, un fantastico mosaico con 18 confessioni che ha bisogno di vivere in questo modo, perché o vive in questo modo, l'alternativa è l'ennesima guerra civile. Senti Ugo, i risultati proprio sono ufficiali adesso, per cui diamoli anche per dovere di cronaca. Coalizione Filo Occidentale vince le elezioni con 71 seggi su 128. Siamo in sostanza al quadro che si era in qualche modo già disegnato ieri sera e che conferma quella che tu hai definito una democrazia imperfetta, sempre più filo occidentale. Eh, Sì, ma dire filo occidentale forse non è corretto, diciamo più moderata, nel senso che il Libano è il Levante per definizione, il Libano è sempre stato un paese, un territorio a metà fra Occidente e Levante, ogni volta che qualcuno, ora l'Occidente, ora il mondo arabo, ha tentato di forzare il Libano spingendolo dalla propria parte ha fallito, il Libano deve stare in mezzo. La scelta appunto che diceva è stata fatta, è stata proprio importante in questo senso, anche perché le previsioni fino a pochi giorni fa, prima del voto, erano tutte a favore del fronte guidato da Hezbollah. Stanotte si è cominciato a vedere che invece avrebbe vinto il fronte moderato, si prevedeva che avrebbe potuto vincere con uno scarto pochissimo, invece adesso il risultato finale dice che rispetto a un Parlamento di 128 seggi, i moderati del 14 marzo hanno la maggioranza assoluta. Questo non vuol dire che faranno un governo solo loro, comunque punteranno, come ho intervistato questa notte Saad Hariri, il leader del 14 marzo, e lui stesso, pur essendo pur così inebriato dalla vittoria, diceva che comunque Hezbollah è un partito importante, è un partito decisivo, è un partito che ha molto consenso e quindi il suo sforzo sarà quello di includere Hezbollah. Forse proprio in Occidente non va dimenticato questo. Grazie a Ugo Tramballi. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Anna Migliorati, Alessio Maurizi in studio, il coordinamento di Gigi Donelli, in regia Pietro Lacorte. 13:54 minuti, restate con noi. Perché tra poco, dalle 14, comincerà un'altra lunga maratona elettorale perché inizia lo spoglio delle amministrative. Tutte le altre notizie, come sempre, negli appuntamenti invece di GR24. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 13. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.